La rosa purpurea di Franco D'Assisi. La rosa purpurea speciale Capodanno. Ben ritrovati amici che ci stiate ascoltando poco prima o poco dopo della fatidica mezzanotte. Noi siamo qui per raccontarvi non tanto tutto il cinema che c'è, che è lo slogan della nostra trasmissione, ma tutto il cinema che ci sarà nel 2018, perché è una puntata nella quale vogliamo già proiettarci su quello che sarà l'anno prossimo sul grande schermo. E per farlo, chi meglio di Piera De Tassis, che è qui con me. Ciao Piera. Ciao, buongiorno a tutti. Che grande piacere averti buon qui anno, con noi. Buon, tutto. Buon anno, buon fine anno, buon inizio buon anno, buon tutto, Piera De Tassis. Tutto quello che volete. Se adesso mi metto a dire chi sei, facciamo un primo blocco della trasmissione. Sono Piera. Comunque, una donna. Super una direttore donna. Di Chuck, storico direttore di Chuck, come si dice in questi casi. Penso si che... diceva di un tuo collega, Gigi Vesigna, no? Si diceva storico direttore di diffusore di Canzone. Ti ringrazio per gli accostamenti, così. Ma sei molto più giovane, tu sei molto più giovane. Beh, è stato il mio direttore Gigi Vesigna. E però anche tra l'altro fresca di nomina, dopo la festa del cinema di Roma, eccetera, fresca di nomina a capeggiare i David di Donatello. Insomma, Piera è una persona di cinema a tutto tondo e ci aiuterà molto a capire un po' cosa ci aspetta dal 2018 al cinema, cosa aspettarci anche, cosa andare a vedere, cosa segnarci sull'agenda, quale autore ci porta un film nuovo che magari vale la pena puntarsi. Insomma, questo è il senso di questa puntata. Di uscite nuove ce ne saranno già nelle primissime settimane, come Un gatto in tangenziale di Riccardo Milani con Paolo Cortellesi e Antonio Albanese, Il ragazzo invisibile, seconda generazione di Gabriele Salvatore, tanto per stare sul cinema italiano, Benedetta follia di Carlo Verdone. Sono film che analizzeremo poi proprio nelle prossime settimane nella puntata tradizionale del sabato della Rosa Purpurea, però ci sono anche film che come dire ci aspettano un attimo più in là, e allora cominciamo a familiarizzare. Direi, Piera, innanzitutto ti chiedo questo: è un 2018 che a scorrere un po' le uscite ti lascia ottimista? Ma diciamo, mi lascio molto ottimista per quanto riguarda il cinema italiano, adesso al di là della nomina ai David di Donatello, però vedo un cinema italiano che tenta la strada internazionale, lo vedremo subito nei primi film, c'è il film di Luca Guadagnino, Call Me By Your Name, che con grande sagacia, diciamo, e anche con un po' di polemica, ha evitato ogni uscita italiana, ogni festival italiano, e se n'è andato al Sundance, esce un anno dopo qua ed è già in corsa Golden Globe, ma noi speriamo molto anche nella corsa all'Oscar. C'è Ella e John di Paolo Virzì, non voglio anticipare, ma insomma è uno sguardo, sono al lavoro grandi autori che hanno anche un richiamo internazionale, come Sorrentino, come Matteo Garrone. Però si comincia un po' a cambiare, le ammucchiate di supereroi mi sembra che vadano a calare, o comunque caleranno, perché non finiscono a un certo punto, no? Beh, finiscono i supereroi, anche metterli insieme, incrociandoli pure, e anche mettere insieme una storia credibile anche in maniera a un certo punto. Non corretta, però insomma alla fine le combinazioni finiscono. Però ci sarà il primo supereroe nero, Black Panther, e quindi ritorna un po' la Black Exploitation, ritorna questo, certo, ruolo. Poi con quel nome lì, come dire. Qual è Black Panther, esatto. Devo dire moderatamente ottimista, diciamo sì, così. Sì, e poi ci sono le sorprese, ci saranno le sorprese. Adesso le vediamo però, tutte. Certo che chiedimi, è di una grande cattiveria chiedermi tutto l'anno. Però se per saperlo meglio dovete acquistare Chuck. Cioè, tutti i mesi, mese per mese. No, questo è speciale, che è il 100 film. Vabbè, questo poi è il numero imperdibile dell'anno. Quello di agosto sono i 100 assolutamente, film. Assolutamente. Quelli che ci permettono di superare la crisi dell'editoria. Sin da ragazzino, quello era un numero che aspettavo con particolare ansia. Allora, facciamo una cosa, perché poi il tempo corre, sembra, ma corre. Allora, noi abbiamo diviso un po' in periodi queste uscite. Cominciamo con il primo bimestre di quest'anno. Abbiamo detto alcuni titoli. L'11 gennaio arriva Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Lei deve essere la madre di Angela Hayes. Esatto, sono la madre di Angela Hayes. Mildred Hayes, perché ha messo questi cartelloni? Mia figlia Angela è stata ammazzata 7 mesi fa. La polizia è troppo impegnata a torturare la gente di colore per risolvere un crimine vero. Che diavolo è? Dixon, è Pasqua, sono a cena con la mia famiglia, cazzo. Scusate. Lo so, capo, ma abbiamo un problemino. Abbiamo un problemino a Ebbing, Missouri, un film con una Frances McDormand gigantesca che mi sembra già addirittura di almeno di nomination all'Oscar. Io penso che sia addirittura di nomination all'Oscar. Frances McDormand è un'attrice straordinaria. Io devo dire anche, ho appena letto, un po' per divagare, se volete, ma ho appena letto un'intervista sua, sono rarissime. Lei non fa interviste da circa 20 anni, ha deciso di non fare interviste, di non uscire, non fare uscite pubbliche. Niente, preferisce l'invisibilità. Dice che più invecchia, più è contenta perché più diventa invisibile. Quindi è una speranza per tutte le donne. Invisibile. Sì, sì, sì. Dice, no, anzi, dice esattamente: la menopausa è una benedizione in questa intervista perché diventa invisibile. Sapete tutti che poi la moglie di Cohen, è di uno dei Cohen, di Joel Cohen, e qui è straordinaria perché è in un ruolo dei suoi, senza trucco, senza inganno, questa bandana in testa, è una madre che cerca di sollevare il silenzio che si è steso sopra l'omicidio violento della figlia. Certo. E quindi con questi manifesti, con questi... Sì, sì, con tre manifesti che dicono una cosa molto semplice, perché ancora nessun arresto per la morte, esatto, di mia figlia. È una vera e propria stalker, una giustiziera stalker, ma una giustiziera con buone intenzioni. Ed è, devo dire, nella chiave di quello che dicevamo all'inizio, veramente il primo film che hai scelto è un film che è tutta una storia femminile, che racconta bene e interpreta uno dei problemi presenti. Devo dire, recitato in maniera diretto, con grande secchezza, senza una sbavatura, senza una smagliatura. E però la grande forza da Martin McDonagh. Ma la grande forza è lei, proprio Frances McDormand, che io spero non è mai abbastanza ricompensata. Andiamo avanti di una settimana e il 18 gennaio arriva finalmente, mi viene da dire, in Italia per tutti, Ella & John di Paolo Virzì. John! John! Ella! Ella, what the hell are you doing on a motorcycle? They're dangerous for God's sake. I don't believe you. On a motorcycle without a helmet. And who was that guy? Go to hell. You left me behind. I did not. You left me alone. I don't know where you thought you were going, you and your empty head. Me? Going somewhere without you? You must be crazy. E allora avete sentito le battute, ovviamente in lingua inglese, del film di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland, del quale si è parlato molto. Quando un autore italiano, soprattutto reduce da un successo come quello che è stato La pazza gioia di Virzì, va all'estero, Piera, deve sempre cimentarsi con un mondo produttivo un po' diverso, con criteri di recitazione un po' diversi. Com'è andata, Paolo, secondo te? Ma secondo me lui aveva a disposizione due straordinari interpreti, Donald Sutherland e Helen Mirren. Helen Mirren, candidata ai Golden Globe, e quindi anche qua una finestra italiana aperta sul mondo internazionale. Aveva a disposizione loro, aveva a disposizione l'America e forse il suo sogno americano, ha seguito quello, diciamo, per sintetizzare, ha seguito l'On the Road, ha seguito quello che era un po' l'animo, mettendoci naturalmente una scoperta dell'America e anche il camper, no? Il camper singolare su cui loro si muovono, che anche quella sembra tratto direttamente da un film americano della nuova Hollywood, certo, della New Daisy Hollywood, Rider. Sì, degli anni 70. A me è un film che piace, naturalmente non è La pazza gioia. È un film che mi piace molto per questi due protagonisti, che sono una donna, un marito che ha momenti di totale svanimento, quindi sono di totale Alzheimer, momenti di risvegli, di picchi di risveglio improvvisi che lo rendono straordinario perché non è imprevedibile, eccetera, però decide di portarsi via questa moglie ammalata, che però non lo sembra, insomma, diciamo, ha la forza di Helen Mirren. E insieme ripartono e anche... Ma non c'è mai un momento in cui questa storia diventi semplicemente il racconto. Certo. Il pianisteo su un amore o un matrimonio che si è consumato, che si consuma. Sono dei... Diciamo, sono cattivi anche come i vecchi coniugi, non addolcisce, allo stesso tempo naturalmente sono cattivi come solo la vecchiaia può renderci, penso, e sono straordinari per questo. Quello è il cuore del racconto di Paolo Virzì, imperdibili i duetti fra loro due, se qualcuno li ha trovati magari troppo, perfino troppo retorici nella bravura, no? dei troppo scritti. Certo. Io devo dire, quando sono scritti bene i dialoghi, godo sempre, scusate, certo, la cosa, quindi non mi lamenterei dei dialoghi scritti bene. Esatto. Come sempre devo dire di averlo visto in originale, e quindi come sempre le recensioni dei critici che l'hanno visto, certo, in originale non tengono conto che gli altri non lo vedranno in originale. Non lo vedranno in originale, bisogna dirlo, perché spesso il doppiaggio, però insomma qua conto, certo, che sia stato fatto un ottimo lavoro. Certo. Di nuovo insieme, Rosa Purpurea speciale di Capodanno, tutti film da segnarsi sul taccuino per il 2018. In studio Piera De Tassis, direttore di Chuck. Andiamo avanti con il nostro 2018 cinematografico, spostandoci al 25 gennaio, quando arriva un film molto atteso che si intitola Downsizing. È pazzesco, vero? Una cosa pazzesca. E Dave Johnson. Ciao a tutti. E Carol. Non lo facevo il tipo disposto a farsi rimpicciolire. Ridimensionarsi toglie la pressione. E poi fai davvero la differenza. Tutte quelle balle che salviamo il pianeta? Sì. Ridimensionarsi è un modo per salvare se stessi. Si vive da re, le case più belle, i migliori ristoranti, Cheesecake Factory, ne abbiamo tre. E allora, è stato un film, Piera, dal quale ci si aspettava molto. Perché è Alexander Payne, grandissimo regista. Ma Damon, insomma, e poi questa Kurt storia. Vonnegut, o come diavolo. Alle spalle, certo. Ed è una storia interessante, perché è una storia filosofica alla fine, no? Quella di cosa saremmo se potessimo consumare 100 volte di meno perché siamo 100 volte più piccoli. E quindi sì, è la storia di questo esperimento di rimpicciolimento, perché appunto il pianeta è sovraffollato, si consuma troppo, eccetera. È molto interessante, molto perché interessante. Tutti noi, la premessa è molto interessante. Tutte le mattine quando consumo tanta acqua penso quanta ne consumerei se fossi rimpicciolita. Il problema è che c'è una parte iniziale del film, secondo me molto molto attraente, molto interessante, di costruzione del meccanismo. Poi quando sono rimpiccioliti, uno dice basta, è finita lì. Ci sono naturalmente sempre dei pregi, perché comunque Alexander Payne è un regista quasi astratto, cioè dei momenti di... come dire, di devianza registica che sono sempre interessanti, qua molto adattati a una regia più blockbuster, certo, che avrebbe dovuto, certo, essere blockbuster. Io sono sempre a favore di Christoph Waltz, che mi piace moltissimo. Qua la vera rivelazione è Chow Hong, certo, che anche quella vedo proiettata verso un Oscar o comunque un percorso da Oscar. Tu mi chiederai perché non hai citato Matt Damon. L'ho citato io. Chiedimelo. Perché non l'hai citato? Ma mi viene spontaneo. Perché non hai citato Matt Damon? Perché considero Matt Damon uno degli attori più sopravvalutati del mondo. L'abbiamo ammazzato così. No. Va bene. Prima l'abbiamo rimpicciolito, poi l'ammazzata finale. Benissimo. L'abbiamo rimpicciolito. Secondo me stesse lì un attimo in quel mondo rimpicciolito. Insomma, io non vado pazza per lui. Lo trovo sempre più gigione anche nel film di Sobabicon di, certo, Clooney, e così simpatico, sì, però no, bravo ragazzo, però insomma, non no more, come dicono in America. E Downsizing l'abbiamo sistemato, però sì, quella settimana, il 25 gennaio, l'hai già citato prima con le tue aspettative. Stai facendo fare dei salti. Arrivate, non, però tu segui me, non preoccuparti. Arriva Call Me By Your Name. Ecco, Luca Guadagnino, lo adoro, devo dire, e questa scelta secondo me di fare questo percorso che tu dicevi prima, solo festival esteri, solo comunicazione fuori, insomma, è anche, ce la siamo, dico ce la siamo come sistema di comunicazione, ce la siamo voluta, perché siamo Io Sono Amore meritata. È un capolavoro che siamo riusciti a non mandare all'Oscar, che siamo riusciti a bistrattare in sala, cioè, beh, abbiamo ammazzato anche Splasher, come si chiama, certo, sì c'è un attimo di il suo penultimo film, certo. The Big Splash, scusate, momento di Alzheimer dopo come Alan Mirren, no, come Sutherland. No, ce la siamo meritati. Guarda, io ho la fortuna, devo dire, quindi non ho coda di paglia, perché ho la fortuna di averlo visto Call Me By Your Name, proprio con la crew, con la troupe, perché insomma mi ha invitata, e di averne scritto immediatamente, erano due giorni prima del Sundance, di aver scritto la frase che hai detto tu. Ci siamo proprio meritati questo fatto, questo abbandono, questo cervello in fuga, l'abbiamo costruito noi. Questo film è coperto di elogi critici che io anche mi spaventerei un po', perché certo, veramente sono paginate dal Time, New York Times, alle più prestigiose riviste eccetera. In America è un trionfo di premi ricevute e di critica favorevole, tre nomination ai Golden Globe, fra cui il miglior film. Vedremo cosa succede agli Oscar. Luca Guadagnino ha una carriera davanti a sé in questo momento aperta, ha appena anche, vi ricordo che ha codiretto Suspiria, cioè codiretto, ha diretto Suspiria contemporaneamente. Questo è un film interessante perché è totalmente indipendente, coprodotto con James Ivory, scritto con James Ivory, la Sony l'ha poi acquistato per l'internazionale. È un film internazionale girato a Crema, ambientato a Crema nell'83, ed è la storia di un'educazione sentimentale, certo, gay, dove c'è un protagonista, ci sono due protagonisti importanti, anzi insomma sono tutti molto bravi, però Timothée Chalamet, che è il ragazzino, il 17enne, che scopre in questa villa, in questa estate italiana, lui è italo-americano, eccetera, scopre l'avvento di questo studente, del padre, che è Armie Hammer, bravissimo anche lui, e c'è questo incontro, questa scoperta, Call Me By Your Name, chiamami con il tuo nome, certo, che naturalmente è quando l'amore è il sentimento della passione, il sentimento della compenetrazione, della complicità. E il ragazzino scopre questo, ma è il racconto che è straordinario, perché è un racconto di un'estate fatta, è un racconto molto avvolgente, molto sensuale, senza essere esplicito, anche con qualche nota autoironica, ed è anche il racconto di come inevitabilmente poi la passione sia l'esperienza della passione, sia anche l'esperienza della disillusione. E c'è quest'estate così un po' sovraccitata e calda. Piena, guardando dalle vetrate mi ispirava. guardando qualche materiale, qualche clip, eccetera, del film, mi ispirava un po' di aria da Finzi Contini, in un certo senso. No, non so, no. Io non, sì, capisco l'accostamento. Un po' la bassa, un po' l'estate, un po' gli amori un che po' si la fanno bassa, e si il sfanno. Lago di Garda, gli amori. E soprattutto il tono intellettuale della famiglia, naturalmente è il mondo che ormai tutti definiscono, fra virgolette, snob di Luca Guadagnino, però è diverso, perché è meno, consentimi questa parolaccia, oleografico dei Finzi Contini. Certo. Qui c'è una specie di spalmatura di lieve sudore e traspirazione su tutti i corpi, sulla vegetazione, sugli insetti di fondo che si avvertono nel, certo, calore. Lo vedrete, però insomma è soprattutto Chiamami col tuo nome, che è appunto il segno della crescita, certo, della scoperta amorosa, no? Corriamo, perché il primo febbraio arriva il nuovo film di Steven Spielberg, The Post, con Tom Hanks e Meryl Streep. Tu qui parli di rivelare anni di segreti governativi, ma è legale? Secondo te qui cosa facciamo di mestiere? Ben, forse ho qualcosa. Deve essere merce preziosa. Solo segreti governativi. Al New York Times è stato vietato di pubblicare ulteriori documenti riservati riguardanti la guerra del Vietnam. Se li pubblichiamo, saremo alla Corte Suprema tra una settimana. Ovvero? Potremmo finire tutti in galera. E questo è The Post di Steven Spielberg, lo Spielberg più politico, più legato alle vicende appunto del suo paese, la pubblicazione dei quaderni del Pentagono avvenuta all'inizio degli anni 70, e insomma ancora una volta al centro di un film, viene da dire, il Washington Post, che è uno dei giornali più citati, diciamo, certo, della storia del cinema. Beh, insomma, qua siamo in puro cinema americano. Siamo già verso l'Oscar anche qua. Steven Spielberg con due straordinari protagonisti, naturalmente, e Meryl Streep e Tom Hanks, quale coppia più... quale copia rappresenta oggi meglio, diciamo, sullo schermo, certo, il liberal americano e tutta quell'America che è stata sepolta, certo, da Trump. Qui siamo proprio in pieno antitrampismo, così, ed è la storia, però, in realtà, tratta dal libro di Kay Graham, che non è ancora pubblicato in Italia. È la grande editrice del giornale, che del Washington Post, ed è la storia della sua resistenza, appunto, all'epoca dei famosi quaderni del Pentagono, li chiamano così, io direi che erano i Pentagon Papers, sì, esatto, fa. Però c'è la traduzione sulla che erano, appunto, svelavano e emettevano, come dire, il dito su tutti i guai e su tutti i segreti nel rapporto fra governo, guerra Vietnam, certo, e sulle strategie, cioè top secret al momento. E è la storia soprattutto in gloria della resistenza di una grande editor, ma anche editorialista, insomma, due Kay Graham, e Tom Hanks rappresenta e interpreta quello che è forse il più determinato fra i suoi giornalisti redattori, certo, eccetera, sì, questo, sì, Ben Bradley. E è una storia americana del tutto classica, diciamo, assolutamente, ormai è uno Spielberg, che è il cinema classico Spielberg americano, che è diventato, no? E però diciamo che nel classico, io devo ammettere che ne sto parlando così senza averlo visto ancora, quindi, però mi sento di dire che dai racconti che ho avuto è veramente un film classico, certo, non un film che stravolge il cinema, ma un film di narrazione, bene, certo, solida. Assolutamente. E quindi penso, tra l'altro, credo che, appunto, ci sarà una grandissima anteprima italiana, anzi sarà, penso, a Milano, quindi preparatevi tutti, perché per la prima volta Milano batte Roma, credo. Mi stai dando una notizia. Ti sto dando una notizia, non so se sì, ti sto forse dando una notizia, speriamo non sia smentita, perché e doveva, ecco, succedere anche con Dead Full Eight, e poi dopo invece andò in un'altra, esatto, maniera. Infatti, però, anzi, andò in quel gelato Cinecittà. Però volevo anche dire che è impressionante la velocità di produzione di Spielberg, perché subito dopo arriva un altro film, arriva Really Ready Player One, devo leggere perché è un titolo di una complicazione, che è un film invece di fantascienza. Allora ne parliamo fra un attimo. Tiriamoci Spielberg, cioè, giusto per dire due cose di trama anche su questo, perché poi ci aspetta invece l'uscita di The Shape of Water, che appunto Piera ha amato moltissimo. Eccoci qua, prosegue la nostra cavalcata, la nostra surfata di Capodanno sui film del 2018 con Piera De Tassis, direttore di Chuck. Siamo ancora a febbraio, ma perché? Perché abbiamo concentrato ovviamente molte delle primissime proposte, che sono quelle su cui c'è qualche certezza in più, però guarderemo anche oltre l'orizzonte della primavera. Però il 14 febbraio arriva nelle sale The Shape of Water di Guillermo del Toro. La tua unica preoccupazione è la risorsa. La vogliono i sovietici. Ce l'hai? Signore, la sto recuperando. Avete visto qualcuno entrare e uscire dal laboratorio? No, niente di insolito. Già nella clip si sentono mischiarsi dei mondi, un mondo musicale di un certo tipo e le parole che invece sembrano appartenere quasi a un altro pianeta. Leone d'Oro a Venezia, lo ricordiamo, Sally Hawkins, Michael Shannon, tanto per citare i due nomi forse più importanti del cast, è una storia che qualcuno ha ribattezzato come una sorta di nuova Bella e la Bestia. Beh, sì, la coincidenza è naturalmente straordinaria. Qua voi avete sentito parlare, avete capito che siamo negli anni 50, la guerra fredda, paranoia americana nei confronti del blocco comunista, c'è di tutto in questo film, e c'è questo spettacolare, cattivissimo Michael Shannon, che è lui che cattura la creatura del lago e la porta in questo laboratorio per esperimenti, la chiude nella tortura, c'è tutto, naturalmente la metafora della metafora, che non vi sto neppure a spiegare, solo che questa creatura è meravigliosamente, come dire, dolce, Bella, è bella, è bella. Una sorta lui di è sirena, molto diciamo. Bello, è molto bello, è molto sexy. Nel laboratorio lavora, e qua notate tutti, qua siamo alla, al mostro della laguna, naturalmente. Nel laboratorio lavora la timida, impacciata, forse un po' repressa, ma c'è una ferita alle sue spalle, naturalmente, nel suo cuore, nel suo animo. Sally Hawkins, muta, non parla. Pure. E se abbiamo... sì, c'è come dire, altro. No, non c'è altro, ma tutto quello che detto suona come il muto, poi il cinema muto, per carità, ce n'è di tutti i colori. C'è anche un meraviglioso vicino di casa, insomma... si innamora la Sally Hawkins, bistrattata da chiunque, povera, lasciata sola nel suo appartamento, si innamora della creatura e la porta via con sé. Prima comincia a darle delle uova sode sedurre con le uova sode, ma poi la cosa incredibile è che appunto tu ti innamori della creatura e poi scopri anche che finalmente la creatura, a differenza del mostro della luna nera, ha un sesso, quindi fa del sesso, ma detta così tu ti spaventi. Ma in mano a Guillermo del Toro diventa una meravigliosa storia fantasy. Guillermo del Toro, e poi dirò una cosa, che disse sul palco di Venezia: ognuno ha una fede, io ho fede, io credo nei mostri, venne tradotto io credo nella senape, perché avevano capito mustard. Fantastico. Io l'ho anche twittato, poi l'ho subito tolto, però perché mi sembrava straordinario. Esatto, credo nella senape, nella grena. E voglio ricordare però che questo film, comunque io credo nella senape, volevo dirlo, io credo nei mostri, in questo caso nelle creature, chiamiamole creature. E nessuno ha mai fatto una creatura così avvincente, devo dire, alla fine. Però c'è un segreto dentro quella creatura, che non è effetto speciale. C'è Doug Jones, che ha lavorato sempre con Guillermo del Toro e che è abituato a interpretare sempre, certo, le creature inventate dalla fantasia, nera. Di cosa? E perché? Perché dice: sono un ballerino, sono sottile, ho le mani che si muovono gentilmente, posso interpretare e dare tutto, vita, senza che diventino dei mostri. Certo, ma fantastico. E allora 14 febbraio The Shape of Water. A febbraio sempre c'è il Festival di Berlino, come sai, come tutti sanno, o come alcuni sanno. No, come tu sai benissimo, ma perché tu sei un grande frequentatore, io ci vado solo 3 giorni. Ma soprattutto perché soffri il freddo, lo sapevo. No, detto questo, però, c'è un film italiano che prima hai citato in apertura di trasmissione. Ci dici solo una cosina in più su questo Figlia mia di Laura Bispuri o Bispuri? Figlia mia Laura Bispuri che era già stata a Berlino, se non ero, con Vergine Giurata, quindi posso sbagliarmi sul festival. Sì, sono però quei registi che, di cui si accorgono, sì, gli altri. Noi, sì, abbiamo anche questo magico, sì, mondo, no, nel quale. E lei altri... ha girato in ci ha messo un po', ha costruito questa storia, che è la storia di due madri e una figlia. Le madri sono Alba Rolvacher e Valeria Golino. Siamo nell'interno della Sardegna, una Sardegna, lo stagno di Cabras, nei dintorni di Cabras, e quindi un interno selvaggio, arcaico ancora, che si adatta bene a queste due protagoniste, che sono entrambe selvatiche, un po' come la regista, no? Questo. E raccontano la storia appunto di una madre vera, di una madre acquisita e del ritorno della madre naturale che chiede l'affetto di questa figlia. Ed è lo scontro, ma anche l'incontro certo, fra due maternità. E invece lo scontro e basta, è quello che arriva il 22 marzo, quando arriva nelle sale un film che, come dire, si collega anche a un filone di quest'anno di storie sportive, no? Che hanno avuto tanti sport come protagonisti. Pensate solo a Borg McEnroe, tanto per dirne uno. Certo. Stavolta siamo sul ghiaccio del pattinaggio, per una delle vicende più controverse della storia dello sport recente, quella del famoso assalto a Nancy Kerrigan di cui fu incolpata Tonya Harding. Sentiamo la clip di I, Tonya. The haters always say, Tonya, tell the truth. There's no such thing as truth. Everyone has their own truth. I was the best figure. faster skater in the world at one point in time. E allora avete sentito la clip, ovviamente ancora in originale perché ancora non c'è la versione doppiata, però un film che vi dico già bellissimo, questo che esce il 22 marzo, Craig Gillespie alla regia, Margot Robbie e Sebastian Stan, solo per dire due dei nomi di un cast però che ha dentro personaggi davvero sorprendenti, intanto in scrittura, Piera, perché è un film scritto veramente bene. È un film sorprendente in scrittura, in montaggio, in recitazione, una Margot Robbie che si debellizza, nel senso che diventa, dicevamo prima, un downgrade. Beh, diventa, della sua... cioè, è straordinario come lei diventa, perché questo bisogna dire che è la storia di un documentario, di un finto documentario che viene girato su, appunto, Tony Harding e il suo marito, complice, istigatore. Voi nel trailer avete sentito, dice, ognuno ha la sua verità, e qui effettivamente è un puzzle di verità, certo. No? Nel sentire comune, Tony si pensa e si ricorda che Tony Harding fu lei ad aggredire, a rompere il ginocchio. Kerrigan, certo. In realtà no, in realtà fu un complotto ordito da un marito di cui non si può dire. Di cui non si sente il bisogno, diciamo, ecco, così. Quello, di cui non si sente il bisogno, da un bodyguard che era anche un agente della CIA, che non si crede che sia esistito, invece ci sono le immagini, perché ci sono anche immagini di repertorio. E da un esecutore squilibrato al punto che, per scappare, anziché usare la sbarra di metallo d'acciaio con cui aveva rotto il ginocchio a lei, sfonda la vetrata con la testa. Quindi questo era il quadro di un'America profonda e anche marginale. Tonya Harding è stata forse la più grande figure skater, certo. Era l'unica che faceva il triplo Axel. Il triplo avvitamento in aria, e addirittura lo fece due volte nella stessa competizione. Io amo molto il pattinaggio, quindi sono. E però rappresentava quello che si chiama il white trash, certo. Il trash, diciamo, il trash bianco, trash, insomma, il sottoproletariato, comunque la marginalità. Certo. Quella certa volgarità americana contro la principessa, certo. Nancy Kerrigan, e una storia familiare disastrata, e di ogni cosa, e quindi non acquisiva mai. I costumi erano di poco prezzo. Questo si vede bene. Uccidi dalla madre, che è un altro personaggio leggendario. Quindi lei non acquisiva mai il punteggio più alto, perché gli mancava quella che perché era il cigno, certo. E perché la musica rock, la musica non era quella. Era una ribelle, in realtà, una era grande una ribelle. Ribelle. Lei, qui Margot Robbie, straordinaria. Non so, per me, ho mantenuto anche per me il mistero su come siano riusciti a farle rifare i numeri, che poi vedremo in chiusura, vedremo proprio la splendida esibizione della, certo. della ecco cosa succede, che un personaggio che esce straordinariamente dal film, oltre a Margot Robbie, è sicuramente la madre, che è nel film, si chiama, ha quel nome stupefacente, che è Lavona Harding. È interpretata da Alison Janney, secondo me la vera trionfatrice del film, di cattiveria assolutamente inscusabile, ma proprio contro la figlia, tanto è vero che la figlia a un certo punto si carica nel coso, le chiedono dov'è la madre, e lei dice, ma penso che dorma in un camper dietro un porno shop, per dire, perché non si parlano più. Però il personaggio della madre è veramente straordinario, con questa parrucca, l'invecchiamento e queste immagini che riprendono, immagini di repertorio, con lei che, intervistata, dice cose cattivissime. Dice col pappagallo. E dice anche dove è finito tutto lo shooting che avete fatto su di me al regista, quindi questo poi viene, con il pappagallo. Che morde l'orecchio. Sì, che ti morde l'orecchio. Time ha fatto proprio tutta una storia di copertina degli spettacoli con lei con il pappagallo. È un film assolutamente... Beh, lei è già prenotata per l'Oscar come non protagonista, penso. Io penso di sì, se non sono pazzi all'Oscar. Penso che questo sia veramente un film da vedere e da seguire anche molto bene, perché ci sono e c'è tutto un andirivieni temporale che è affascinante, certo. Però è anche ti ridà però veramente lo spaccato di quella America, mondo non è solo l'esibizione sui pazzi, è proprio questo, non è stato bene a dirlo, perché mi fa venire in mente che insomma è la certificazione che si può fare un film su un argomento sportivo dicendo altre cose, cosa che per esempio non è riuscita molto a Borg McEnroe. Borg McEnroe è l'illustrazione esatta del titolo, Borg McEnroe, esatto. Bene, grazie, invece qui c'è dietro tanto altro, pur non abbiurando, cioè lo sport non è una macchietta, è una presenza molto forte in questo caso, però dietro c'è davvero molto, c'è cinema, molto di più. C'è profondità, c'è cinema e profondità, assolutamente. Eccoci ancora insieme, La Rosa Purpurea, alla quarta parte di questo nostro speciale che scavalla il Capodanno 2017-2018, momento di passaggio. Che cinema vedremo nell'anno che è appena così alle porte o appena iniziato, a seconda che ci stiate sentendo, il 31 o l'1. E allora, Piera De Tassis con noi, ci siamo tenuti in fondo un po' di cinema italiano, perché abbiamo parlato di tante uscite internazionali, film da attendere, abbiamo anche parlato di qualche film italiano che però, guarda caso, in qualche modo era sempre collegato all'estero. Vuoi che Ella e John è girato in America, vuoi che Guadagnino comunque anche lui è girato in inglese, perché... esatto, in inglese, vuoi che anche la Bispuri comunque va a Berlino. Adesso invece ci teniamo a quella fetta di cinema italiano che è un po' più vicino a noi, anche proprio temporalmente, cominciando da un film che è appena uscito nelle sale il 28 dicembre e che so che però Piera ha amato molto e di cui vogliamo ascoltare questa clip. Si intitola Come un gatto in tangenziale. È sulle periferie metropolitane che oggi si gioca il futuro dell'Europa. È arrivato il momento di andare oltre le parole, a cominciare da noi, a cominciare da me. Fabio, ho conosciuto un ragazzo. Alessio? Dov'è casa di Alessio? Quest'oggi. Dove, scusa? No! Quello è un posto irrecuperabile. A Confluto Scampia è un centro benessere. Io ho conosciuto anche la mamma. In Confronto Scampia è un centro benessere, una delle battute che ricorderemo di questo film. Ricordiamo, regia di Riccardo Milani, Paola Cortellesi e Antonio Albanese, ormai una sorta di coppia solida del nostro cinema, di quella commedia popolare ma sempre di grande piacevolezza, di grande gradevolezza, di recitazione attenta, di scrittura accorta, che so essere quella che piace a Piera De Tassis. No, ma questo devo dire che la coppia è straordinaria, però questo non ho timore di lanciarmi, perché questo l'ho proprio molto amato, questo gatto, Come un gatto in tangenziale. E infatti ho scritto dalle case i baffi in tempi non sospetti. Prima di essere stirati come il gatto in tangenziale. Sì, prima di essere stirati come il gatto in tangenziale. L'ho molto amato perché racconta una storia che è una storia appunto di marginalità, cioè una storia di confronto fra la periferia, questo quartiere Bastoggi, dove si viene accolti appunto da mazzi e da baseball che frantumano il parabrezza, ed è multiculturale, eccetera, dove questo pensatore, questo europeo, diciamo, questo albanese che fa parte di un think tank che Paolo Cortellesi della periferia, sbaglia sempre, dice tic tac, fai parte di un tic tac, e a me dice che lavoro è, e lo dico gentilmente, il lavoro sarebbe. Però insomma ci sono un sacco di idee, c'è il confronto fra questi due mondi. La prima volta che Albanese arriva nel condominio di Bastoggi è veramente memorabile. Ci sono delle idee, di loro sono brevissimi, non c'è nulla di per bene in questo film, c'è poco, certo, e questo, c'è un questo finale. È molto bello, diciamo. esatto, non c'è nulla che viene preso così come scontato, dobbiamo stare dalla parte delle periferie, anzi molto bene, molto bene. Allora andiamo avanti, perché questo film è già al cinema, ma il 4 gennaio arriva Il ragazzo invisibile, seconda generazione, il sequel del ragazzo invisibile di Salvatore Piera, devo dire che ha intrapreso questa strada con grande coraggio, perché in Italia mettersi a fare una roba ed è diventato il lavoro di una vita, e ti dà anche il senso di quanto intellettualmente Gabriele stia, come dire, addosso a questo progetto e ci creda ciecamente. E io credo che, guarda, la cosa che va sottolineata sia quanto ha investito proprio un artista arrivato che poteva riposare sugli allori di un Oscar conquistato, che non è più neanche giovanissimo, diciamo, quindi ha 10 anni, no? Ha investito 10 anni, credo, fra una cosa e l'altra, progetto e tutto, forse un po' meno, però sono tanti. A 20 anni sono meno, quando tu sei certo. più grande sono tanti, perché potrebbe, avrebbe potuto scegliere qualsiasi cosa. Invece ha investito su un progetto che è un progetto appunto dedicato ai ragazzi, dedicato ai, agli adolescenti, ma è un progetto anche che vuole in qualche modo riuscire a portare in Italia un certo tipo, un certo modello italiano di supereroi, di fantasy, eccetera. Questo secondo, seconda generazione, secondo episodio, diciamo, di io lo trovo molto più forte del precedente, devo dire. E quindi un film che va seguito, diciamo, con grande attenzione. Proprio come noi diciamo, come production value, anche certo. oltre che come. Ma mi sembra proprio che Gabriele artistica. Abbia voluto in qualche modo, come dire, fare un film che rimanga, ecco, sì, occuparsi poco, esatto, occuparsi poco del presente e più di qualcosa da lasciare, sì. come anche. Perché c'è anche un percorso un po' Antoine Duanel, diciamo. Con tutto certo, il rispetto, certo, però, il giovane protagonista. Perché il giovane protagonista cresce, tutti i coprotagonisti, i ragazzini, noi li vediamo crescere certo. e quindi da ragazzini sono diventati adolescenti, li vediamo anche molto mutati. Assolutamente, e tutto. Seguono il loro quindi, iter, diciamo. Esatto. 11 gennaio, settimana dopo, Benedetta Follia di Carlo Verdone. Ascoltiamo questa clip. Sono 25 anni di matrimonio, ma ci amiamo come se fosse il primo giorno. È da un anno che io mi vedo con un'altra persona. Chi è questa persona? Silvana! Tua madre c'ha una relazione con la mia commessa, è una cosa normale. Sono mesi che stiamo senza commessa. Sono venuta a panno, non so. Lei si è un mastico, eh? Lo vedo. Hamburger all inclusive. Che sì. dice? S'assunta? Un negozio di arte sacra, una negoziante, una commessa sui generis, diciamo, per un negozio così, e Carlo Verdone... Dall'altra parte, in che Carlo Verdone ci troveremo di fronte? Voglio dire, quello più della commedia universale, quello più della parte comica, dov'è che va Carlo questa volta a parare? Ma io credo che questo sia più il Verdone della commedia, con un innesco fortissimo e volutamente fortissimo, perché nasce da lui, che è quello degli stessi autori e sceneggiatori di Gigi Robot. Quindi sono due generazioni a confronto in questo film. La coprotagonista è Ilenia Pastorelli, che era la protagonista, coprotagonista appunto con Santa Maria di Gigi Robot, che è la commessa di cui avete sentito l'inglese perfetto. E credo che sia più appunto il tentativo di raccontare, si parla di appuntamenti, di app, di appuntamenti al buio, diciamo, qui si chiama Love It. E quindi ci sono gli incontri poi con Minaccioni, con Maria Pia Calzone, tutte grandi attrici, tutte grandi protagoniste. È il mondo dei depressi sentimentali, però con una virata tipica, diciamo, di Verdone, il mondo dei depressi sentimentali, con una virata però verso il mondo appunto dei Gigi Robot. Quindi con una sorta di fantasy, a un certo punto vola sopra Roma in motocicletta, vabbè, dopo aver preso una pastiglia d'ecstasy. Quindi, e dopo un balletto con... Un po' Spielberg, un po' Zavattini, potremmo dire, in un certo senso. Un po' Fellini. un po' Zavattini, sì. Allora... Balletti... Prelati in latex. Beh, insomma, allora aspettiamoci questo Verdone, Benedetta Follia, 11 gennaio. Invece, salto a maggio, perché è lì che si concentra, abbiamo di vedere, sicuramente il film italiano più atteso dell'anno, senza ombra di dubbio, che è L'Oro di Paolo Sorrentino. Noi siamo qui, più forti di prima, e ringraziando il cielo siamo diversi da loro, che hanno perso la speranza e gli ideali. Non riusciranno a toglierci la parola, il pensiero, il legame che ci unisce a milioni di altre donne e uomini che condividono la nostra stessa passione per la libertà. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci! Il Berlusconi di Paolo Sorrentino, L'Oro, questo titolo straordinario, no? Dai del voi oppure dai addirittura del loro, no? E questa cosa è bellissima. E però ti chiedo, qui Sorrentino si ricimenta con qualcosa di estremamente concreto, reale, con il quale fare i conti, no? Cioè la figura di Silvio Berlusconi, che bene, male, piaccia, non piaccia, ha segnato a fuoco 20 anni di vita del nostro paese e forse ancora lo sta facendo. Li ho messi a maggio perché li ho messi in atmosfera Cannes, Paolo Sorrentino con loro e Matteo Garrone con la storia del Canaro in Dogman, sono molto amati sulla Croisette. Però ti chiedo, soprattutto di Sorrentino, che tipo di equilibrio secondo te bisogna cercare in un film così, per non essere, capito, troppo didascalici, fare cinema, cioè ci sono tante missioni da portare a casa. Io mi aspetto di tutto e non sono in grado di prevedere nulla, perché avrei dovuto leggere la sceneggiatura. Credo che ci si possa veramente aspettare, certo non mi aspetto un film su Berlusconi. Assolutamente. Ma ecco. come fu il tempo del Caimano, allora, se vogliamo come anche. Come ha detto Sorrentino, il Berlusconi è un grande personaggio italiano, io racconto personaggi di questo paese, ma non mi aspetto un film su Berlusconi. Assolutamente, e comunque lo aspettiamo nonostante, molto, perché è un film che... Vabbè, no, credo che se lo aspettino in molti. Sì, se ne parlerà. Da una parte e dall'altra lo aspettano. Se ne parlerà molto. Allegri all'inizio dalla pace di Berlusconi, erano molto contenti. Adesso non so perché sono un po' più preoccupati. E allora, noi siamo arrivati... Ma dopo marzo saranno placati. Siamo arrivati alla fine di questa nostra surfata, come l'ho ribattezzata all'inizio, sul 2018 al cinema. Grazie a Piera De Tassis, direttrice di Chuck. Buon lavoro con i Davide Donatello. Grazie a te che mi hai fatto fare questa maratona. Questa mi sono venuti in mente tutti. Adesso sono molto preparata, per fortuna posso affrontare di tutto. Allora, grazie, trasmissione sempre interessante. Grazie Piera, buon anno a tutti, mi raccomando. Noi saremo come sempre qui sabato prossimo alle 18, tutto il cinema che c'è, La Rosa Purpurea. Ciao.